La borsa che scende. Parigi cede l'1,17%, Francoforte. La rabbia che sale. La cronaca che ci spaventa. Tre vittime forse in una lite tra vicini. La politica che non ci accontenta. Lei impari a fare il politico. Oh. Arriva la domenica, è il momento di deporre le armi e di portare a casa i premi. Alle 12.30, 1000 euro da spendere in libri, CD e DVD sulla Feltrinelli.it con il mistero in 24 minuti. E il primo indizio sarà questo. Guarda come son tranquilla io, anche se attraverso il bosco, con l'aiuto del buon Dio, stando sempre attenta al lupo, attenti al lupo. Il riposo del guerriero, ogni domenica alle 11, con Stefano Gallarini, su Radio 24. Mario, ci spiegheresti l'ISC? Allora, dicesi ISC l'indicatore sintetico di costo. Nel caso di conto corrente arancio è semplice, sì. È a zero. Certificando quindi la convenienza del conto. Meno male che è sintetico, ma che significa? Che conviene. La nostra migliore pubblicità sono i nostri clienti. Pubblicità per i fogli informativi, la documentazione contrattuale, per il documento informativo MIFID relativo ai servizi offerti da ING Direct, chiama l'848-884-884 o vai su ingdirect.it. Chiedi a chi ce l'ha. In città si respira aria nuova con Lexus RX 450H Full Hybrid, 299 cavalli con emissioni e consumi da auto compatta. E solo a luglio, con full leasing di Lexus Financial Services, può essere tua a 496 euro al mese. TAG 7,15%. Fogli informativi in concessionaria. Lo strano caso della compagnia immobiliare che vendeva case a prezzi stracciati non è più uno strano caso. Anche questa volta il ragionier Mario ha riportato la tranquillità tra i cittadini. Forse una soffiata? No, registroimprese.it. Per stare sicuri, negli affari o nella vita, c'è un'arma infallibile per niente segreta. Registroimprese.it, il servizio delle camere di commercio oggi ancora più facile e più ricco. Per sapere tutto su clienti, partner e fornitori. Iscriviti ora, avrai tutte le risposte e 15 euro di interrogazioni gratuite. Le 6:28. GR 24, il sole 24 ore. In Piemonte si ricontano i voti, accolto il ricorso contro quota per due delle liste sotto accusa. L'inchiesta sulla nuova P2, Carboni e Lombardi restano in carcere. Approvata in America la riforma finanziaria, storica vittoria di Obama. La Lega calcio contro il taglio dei giocatori extracomunitari, i presidenti incrociano le braccia. Buongiorno dalla redazione, da Adriana Fracchi in Piemonte si torna a fare i conti. È arrivato nella notte il primo verdetto sulle elezioni regionali e il TAR ha deciso un parziale riconteggio dei voti. È stato accolto in parte uno dei ricorsi presentati per presunte irregolarità di alcune liste che hanno sostenuto Roberto Cota, eletto alle ultime regionali. Il risultato è che dovranno essere ricontrollate le schede che hanno dato il voto a consumatori e al centro con Skanderbeg. Soddisfatta l'ex presidente Mercedes Bresso, mentre Cota ha annunciato il ricorso al Consiglio di Stato. Una nuova udienza del TAR ci sarà il 7 ottobre prossimo. Il Tribunale del Riesame di Roma ha deciso, Flavio Carboni e Pasquale Lombardi devono rimanere in carcere, dunque i ricorsi presentati dai legali dell'ex faccendiere imprenditore e dell'ex giudice tributario geometra, arrestati l'8 luglio scorso, sono stati rigettati. Le esigenze di custodia cautelare, ha sostenuto Riesame, non sono attenuate. Dopo l'approvazione della fiducia sulla manovra da parte del Senato, restano sul piede di guerra gli enti locali. Se si ammorbidisce la posizione delle regioni, esplode il caso Comuni, che hanno annunciato parere negativo. Durante il dibattito che ha preceduto l'ok alla manovra, così in aula la capogruppo del PD al Senato, Finocchiaro. Europa, austerità, rigore. Bene, benissimo. Ma le parole non sono polisenso, ministro Tremonti. Le parole hanno un solo netto significato. L'Europa non può valere per il saldo contabile e non valere per il Trattato di Lisbona. Non può valere per il saldo contabile e non valere per il diritto allo studio, alla formazione, all'istruzione. Non può valere per il saldo contabile e non valere per il lavoro e per i suoi diritti. Che Europa è? La replica del capogruppo del PDL, Gasparri. Con questa manovra, cari colleghi, abbiamo quindi evitato una crisi sociale interna e manovre speculative esterne che hanno colpito altri paesi europei con conseguenze enormi. Non dimentichiamo di aver ereditato il terzo o quarto debito pubblico del mondo e questo fa dell'Italia un paese a rischio per questa mole di debito. E in America, svolta storica, il Senato ha dato il via libera definitivo alla riforma di Wall Street con 60 voti a favore e 39 contrari. Ora manca solo una formalità, la firma del presidente Barack Obama, forse la prossima settimana. È la più grande riforma del sistema finanziario dagli anni 30. E altra novità importante oltreoceano, British Petroleum ha detto di essere riuscita a fermare la fuoriuscita di petrolio nel Golfo del Messico per la prima volta da mesi. L'arginamento del flusso di greggio, che potrebbe però ancora essere temporaneo, è parte dei test che BP sta conducendo in questi giorni sul pozzo. Chiudiamo col calcio, nessuna partecipazione al Consiglio federale, incontro urgente col governo, revisione delle leggi che regolano lo sport italiano. È la protesta della Lega Calcio che dopo il fallimento del Mondiale sudafricano ha visto ridotti da 2-1 i calciatori extracomunitari tesserabili per la prossima stagione. L'amministratore delegato del Catania, lo Monaco, presidente del Cagliari Cellino, e quello del Parma, Ghirardi. La Lega non può non contare assolutamente niente, le decisioni non vanno prese assolutamente in questo modo. Non penso che eliminare un'extracomunitaria rappresenti la panacea dei mali del calcio italiano. Diciamo pure che la Lega rappresenta in un tavolo della federazione una percentuale molto bassa, visto il peso che c'è che determina il calcio italiano. Io credo che la Lega rappresenta coloro che in questo mondo immettono denaro, e perciò bisogna avere rispetto per chi immette denaro, perché fa star bene anche tutti gli altri. È tutto per questa edizione, un saluto da Adriana Fracchi, a GR24 torna alle 6.58. Vodafone Partita IVA, sono Elena. Buongiorno, avvocato Mauri. Buongiorno, Elena. Che numero devo fare per avere informazioni sul mio cellulare? Questo. E per internet? Sempre questo. Per il mio fisso? È ancora questo. Ah, questo sì che mi permette di lavorare meglio. Se hai un'attività, con Vodafone Partita IVA avrai cellulare, fisso e ADSL, un unico conto telefonico e un servizio clienti che ti riconosce per nome e risponde subito. Vieni su Vodafone.it o chiama l'800-127-777. Vodafone. Questa sera vorrei fare aperitivo e poi cinema. Ma ho una cena di lavoro e c'è un concerto alle 21. Ma prima andrei in palestra. Solo con Elementare Citroën puoi avere tutto. A luglio hai tre vantaggi irripetibili. 2.000 euro di ecobonus su Citroën C1 e un anno di assicurazione furto e incendio compreso nel prezzo. E supervalutiamo il tuo usato su Citroën C1 Pulp. Scade il 31 luglio. Ti aspettiamo. Come difendersi dalle verifiche fiscali in azienda? Dal Sole 24 Ore, la guida che indica cosa fare. Dai procedimenti di verifica agli avvisi di accertamento, dalle ispezioni documentali alle indagini bancarie. In più il CD-ROM con il software per il ravvedimento operoso. Verifiche fiscali in azienda. Guida più CD-ROM in edicola con il Sole 24 Ore a 11,50 € in più. Soluzioni magazzino? Chiedi di più. Chiedi a Modul Block. Vi presenta... Tempo in diretta. Previsioni a cura del Centro Epson Meteo. Una buona giornata agli ascoltatori di Radio 24. Il gran caldo che in questi ultimi giorni sta facendo soffrire tutta l'Europa toccherà l'apice sul nostro paese tra oggi e domani, quando si toccheranno in molte città da nord a sud i 37-38 gradi, ma con temperature percepite in qualche caso anche tra i 40 e i 45 gradi. Per quanto riguarda il tempo, poco da segnalare, sarà una giornata, quella di oggi, per lo più soleggiata, con i consueti temporali di calore in sviluppo tra tardo pomeriggio e la sera sui settori alpini. Per il meteo è tutto, per maggiori dettagli consultare il sito meteo.it. Voci in scena di Marta Cagnola. Un incontro al giorno, una voce al giorno tra i protagonisti di un'estate di spettacoli sono le voci in scena di Radio 24. Oggi con noi uno dei volti e delle voci più note del giornalismo televisivo italiano, ma non solo. Nato a Roma, ha vissuto e lavorato anche a Parigi e New York, scrivendo per Repubblica, L'Espresso e Panorama. Ha scritto per il teatro, ha pubblicato molti romanzi gialli, ma anche Inchiesta su Gesù, Inchiesta sul Cristianesimo, Disputa su Dio e dintorni. Il grande pubblico lo ha conosciuto per i suoi programmi televisivi Babele, Le Storie, Diario Italiano, Enigma, Telefono Giallo. Quest'estate in tournée con lo spettacolo teatrale Raccontare Chopin, stiamo parlando di Corrado Augias. Augias, ma come mai Raccontare Chopin? È il bicentenario della nascita di questo grande artista e pensavamo di celebrarlo. Corvino è abituato a produrre spettacoli teatrali eccentrici. È quello che ha messo in palcoscenico Margherita Hack, Marco Travaglio, Pier Giorgio Di Freddi, insomma ha messo in scena di tutto. E allora il maestro Modugno del resto è un musicista, un pianista capace tra i pochi di suonare in maniera da concertista, ma anche di saper raccontare quello che suona. Io ho un vecchio amore per Chopin e insomma tutto questo è venuto fuori lo spettacolo. Io racconto alcuni momenti della vita di Chopin, breve come lei sa, 39 anni, molto infelice, molto produttiva, molto artistica, molto romantica, tragicamente romantica vorrei dire. E il maestro, poi ogni tanto mi rivolgo al maestro, che non è che li suona solo, li racconta prima di suonarli. Allora molte persone che non hanno avuto in Italia, purtroppo è una nostra vecchia piaga, un'educazione musicale adeguata a quella che si ha per esempio in altri paesi europei, penso alla Germania, e per la prima volta sentono la musica davvero, perché prima di ascoltarla la capiscono, gli viene raccontato com'è la struttura di quel brano. Perché ha sempre amato Chopin, Augias? Chopin, ogni fanciulla, intanto lei è una giovane donna, dovrebbe struggersi al solo ascoltare un preludio di Chopin. Direi di sì. Sono un vecchio signore, però da giovane mi struggevo anch'io. Presentato dal Teatro Stabile di Roma al Teatro Arlecchino della Capitale, ecco uno spettacolo di rottura, una farsa, Soluzione Finale di Corrado Augias per la regia di Sandro Segui. Augias è considerato il più promettente e coraggioso tra i giovani autori italiani. Ha visto? Non è meglio? Meglio, molto meglio. Insomma, accontentiamoci, speriamo che passi. Generale, cosa hanno detto di me? Di stare attento quando attraversa la strada. E per continuare su questa, così, su questa scia, lei ha scritto un testo che verrà addirittura interpretato da Gherardo Colombo. Un processo, chi viene processato? Cavour? Il Conte, sì, viene insieme a Giorgio Ruffolo. Abbiamo scritto questo processo a Cavour, accusato contemporaneamente di aver fatto l'Italia e di non aver fatto l'Italia, che insomma è un gioco storico che è giustificato anche questo dal momento così confuso che stiamo passando, tra l'altro alla vigilia di un importante celebrazione come quella che ci sarà l'anno prossimo. 150 anni dell'Unità d'Italia e delle domande che potevano valere 150 anni fa e valgono ancora adesso, tra le domande della requisitoria del PM, non so, la questione meridionale, è la questione romana, è incredibile che queste domande valgano ancora? Sì, è incredibile, il destino, il nostro destino nazionale, noi siamo nati come nazione in una penisola che anche geograficamente, proprio nel senso fisico, è piuttosto, non è così felice, diciamo. Se lei pensa alla forma della Francia, che i francesi chiamano l'esagono, o alla forma della Germania, e pensa alla forma dell'Italia o a quella del Cile, che una striscia di terra lunga e stretta, e ovviamente pone dei problemi di trasporto, di comunicazione anche culturale molto forti, e in 150 anni non abbiamo fatto tutto quello che avremmo dovuto e potuto per cercare di renderla un po' più quadrata e un po' meno stivale e un po' più rombo, cubo, compatta. Buongiorno. La puntata di oggi è una puntata speciale non soltanto perché viviamo un momento così, ma per il contenuto e per la durata. È una puntata che durerà parecchio. Lei scrive: la TV ha grande capacità divulgativa, ma spessore minimo. Si potrebbe dire che alla TV si applica la nota legge fisica che rende inversamente proporzionali la velocità e la potenza. Ha fatto tanta televisione, la sua considerazione però forse è un po' amara. No, è oggettiva. La televisione non sa parlare di tante cose. Parla benissimo di altre cose, le cose di cui parla, le cose che fa meglio è la televisione, cioè la visione da lontano. Se in questo momento c'è la finale Spagna contro Olanda e io non c'è giornale, non c'è cronista, non c'è scrittore che me la possa rendere come me la rende la visione diretta dell'avvenimento mentre accade. Questa è la televisione al suo massimo. Se invece devo leggere una poesia, ascoltare, studiare un teorema di matematica, oppure se ascoltare il Tristano di Wagner, ovviamente molto meglio il teatro, il libro, il professore, eccetera. La televisione deve fare il suo mestiere, che è la televisione, il resto non le viene bene. E questo amore per la poesia e per il delitto, per i gialli, come vanno d'accordo queste due cose? Beh, a parte che c'è un libro di Thomas De Quincey che si chiama Il delitto come una delle belle arti, ma a parte, è un po' una provocazione, quindi lasciamola lì. Dove sta, però c'è una cosa, un forte legame, se vogliamo tirare questi due termini che lei mi getta tra i piedi, se vogliamo tirare questi due termini fino alle loro conseguenze, lì c'è l'amore e la morte, che sono l'alfa e l'omega, che sono i due poli tra i quali ci dibattiamo dell'intera esistenza. Da una parte l'amore come sentimento, l'amore fisico, la prosecuzione della specie, l'amore come energia vitale, l'amore quello che si dà agli altri, quello che si prende dagli altri, e la morte che è il complemento, nel senso che rovescia tutto quello che c'è nell'amore nel suo contrario, ma stranamente le due cose possono convivere. Se lei pensa al secondo atto del Tristano di Wagner, lì c'è la sua esemplificazione più alta. La voce in scena di oggi era Corrado Augias. Ci ritroviamo al prossimo appuntamento con altri protagonisti dell'estate. La leggerezza è una piuma che cade su un cuscino, è la neve su un davanzale, ha il suono di un soffio di vento o di un pugno di sabbia che scorre tra le dita. Oh no. BMW Efficient Dynamics riduce consumi ed emissioni anche grazie all'utilizzo di materiali leggeri. Oggi l'efficienza è ancora più accessibile grazie alle offerte disponibili fino al 31 luglio, come ad esempio BMW Serie 3 a 189 euro al mese, TAN 3,99, TAEG variabile, salvo approvazione BMW Financial Services. Fogli informativi presso le concessionarie aderenti. Strade in diretta. Il traffico è in aumento verso le principali città, in particolare attorno alla capitale nell'area milanese. In Lombardia è chiusa in direzione di Milano la strada statale 36 del Lago di Como e dello Spluga tra gli svincoli di Civate e quello di Suello, laghi di Pusiano, a causa di un incidente nel quale è rimasto coinvolto un mezzo pesante, deviazione sulla strada statale 639. Ci sono rallentamenti per lavori sulla 14 Adriatica lungo il tratto romagnolo tra Riccione e Cattolica in direzione di Ancona. Una notizia per chi viaggia in aereo: dalle 21 di questa sera fino alle 12, quindi fino a mezzogiorno di lunedì 19 luglio, l'aeroporto internazionale di Torino Sandro Pertini sarà chiuso per lavori. Sono previste navette gratuite da e per l'aeroporto di Milano Malpensa. È tutto, torniamo ad aggiornarvi tra mezz'ora. Promo 24. Grande interesse dei commercialisti per lo studio professionale esteso. Cresce infatti il numero di commercialisti che vogliono conoscere Business Pass, lo studio professionale esteso di Passepartout. Applicazioni integrate e complete per lo studio professionale, soluzioni specifiche per le aziende, sistemi di comunicazione riservati e dati ed elaborati in tempo reale. Sito personalizzato dello studio con accesso riservato per i clienti e portale di consultazione normativa. Un unico sistema completo ed affidabile con aggiornamenti e copie di sicurezza automatici. Business Pass valorizza la professione, fidelizza i clienti, riduce i costi. Lo studio professionale esteso si trova su www.passepartout.net o all'800 41 42 43. Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti all'ascolto di una nuova puntata. Allora, prima alcune informazioni di servizio. Il nostro sito è radio24.it. Il mio blog lo conoscete, si chiama Guardie o Ladri. Lo trovate nell'home page del Sole o sotto il mio profilo su Radio 24. La seconda informazione di servizio riguarda la nostra mail unabusoalgiorno@radio24.it. Allora, oggi parliamo di una cosa che mi sta particolarmente a cuore. Mi sta a cuore come giornalista, mi sta a cuore come italiano, mi sta a cuore come figlio di una famiglia che, pur provenendo da due parti diverse dell'Italia, ha sempre tenuto che il proprio figlio parlasse in lingua italiana, scrivesse in lingua italiana e fosse un cultore della materia, quella che viene così definita presso le università. Avete capito che stiamo parlando di lingua italiana, che stiamo perdendo per mille motivi. Non è questa certamente la trasmissione adatta per ricostruire questo percorso di gravissima sofferenza per il nostro paese. Oggi ci occupiamo della lingua italiana parlando della, come possiamo chiamarla? Si chiama Accademia della Crusca, ve lo dico subito, ma volevo dire del santuario della lingua italiana, ecco, di un luogo che dovrebbe essere sacro a tutti gli italiani, quindi di un santuario che ha il diritto / dovere di preservare e diffondere la nostra spettacolare, splendida lingua. Che cosa accade? Accade che siamo al... passatemi la parola schifo, poi ora la professoressa Maraschi, Nicoletta Maraschi, che è presidente dell'Accademia della Crusca, mi dirà se schifo può essere usato in italiano, però io provo schifo quando leggo che la professoressa Maraschio arriva a fare una conferenza stampa per dire: non abbiamo soldi per andare avanti. 190.000 euro l'Italia, lo Stato, il governo italiano dà 190.000 euro all'Accademia della Crusca, che è ridotta al lumicino. Sei persone che ci lavorano, per stipendi se ne vanno 200.000 euro, e voi dite: gli altri soldi da dove lo prendono? Da dove li prendono? Bene, allora noi per capire e per parlare di questo schifo, buttiamo soldi in mille rivoli, ho chiamato a interloquire con noi, è veramente un piacere enorme per me, la professoressa Maraschio, presidente donna, straordinario anche questo, dell'Accademia della Crusca. Buongiorno professoressa. Buongiorno a lei, grazie. Allora, posso dire schifo? Si può usare in italiano? Certo, è una parola che noi usiamo, tutti noi usiamo normalmente. Benissimo. Sì. Allora, autorizzata dalla massima autorità italiana nell'uso di questa parola, quindi nessuno potrà accusarmi di non parlare in italiano, io le chiedo: com'è possibile che l'Italia distrugga il meglio di se stesso? Perché siamo così autolesionisti? Com'è possibile che all'Accademia della Crusca, mentre la Germania dà all'analoga istituzione 8 milioni di euro, voi riceviate dallo Stato 190.000 euro? Beh, è una questione triste, diciamo, è una questione triste che riguarda in modo specifico l'Accademia, ma che forse possiamo vedere in un quadro un pochino più ampio, cioè nel nostro paese l'attenzione per la lingua nazionale, l'italiano, ma anche nel rapporto che ha con i dialetti, che come lei sa sono ancora molto vivi, con le altre lingue europee, ecco, questa attenzione è scarsa. non ci si rende conto che l'italiano è che la nostra lingua nazionale è un bene culturale prezioso, che dove è sedimentata la nostra storia, che è vitalissimo oggi. Allora, è vero che ci sono segni di crisi, ma poi ne parliamo meglio. Certo. Allora, io sono d'accordissimo con la professoressa Marasco. Chi segue la mia trasmissione sa, non ne faccio mistero, dell'amore che io provo per quella che definisco la mia patria, termine meraviglioso che purtroppo in Italia viene distrutto, ma qui mi addentrerei in discorsi che non mi appartengono, ma potete immaginare da chi e come viene distrutto il bene prezioso che noi abbiamo di senso di patria, di lingua italiana. Questo mi addentrerebbe in discorsi che non mi competono, non perché non abbia il coraggio di farli, ma perché mi porterebbero drammaticamente lontano. Allora, noi stiamo distruggendo ciò che abbiamo di più caro, stiamo distruggendo la nostra identità nazionale fatta di diversità e quindi di ricchezza, e stiamo distruggendo la nostra lingua italiana in mille modi. Dialetti che valgono soltanto, a mio avviso, quando si può dialogare tra simili, ma la lingua che bisogna usare è l'italiano, e vale questo discorso per mille altre cose ancora. Basta andare a vedere gli articoli dei miei colleghi giornalisti, basta andare a vedere i temi dei nostri figli, basta andare a vedere i discorsi dei professori universitari, molti dei quali verrebbero cassati da moltissimi di noi. Insomma, stiamo distruggendo, vogliamo continuare a farci del male, e allora non diamo un soldo alla Crusca, andiamo avanti così, non diamo un soldo all'Accademia della Crusca, facciamo in modo che la nostra lingua italiana crolli, così come il nostro senso di identità nazionale, che invece a me sta caro come a poche cose. Allora, professoressa Marasco, che cosa possiamo fare? Gli italiani che cosa possono fare? Possono scrivere, firmare petizioni, protestare, scrivere al Presidente della Repubblica, aiutarla con donazioni, vi avvalete del 5 per mille, ci dia una mano. Io, guardi, se voi avete il 5 per mille quest'anno, decido di darvelo. Beh, grazie, questo è già un contributo importante. Noi, ci dica un sito, qualcosa dove andare a supportarvi. Sì, beh, intanto questa stessa trasmissione io la ringrazio, è molto importante per noi, perché non tutti in Italia sanno che esiste un'istituzione come l'Accademia della Crusca, fondata alla fine del Cinquecento, e che è stata viva fino ad oggi e oggi fa tantissime cose. Non tutti lo sanno, quindi una trasmissione come la vostra ci permette di farci conoscere, e questo è già una cosa importante. E poi lei ha fatto riferimento alla fatica di scrivere, ecco, alla fatica di scrivere, anche di parlare, ma soprattutto di scrivere, che noi vediamo così diffusa nel nostro paese. Ecco, l'Accademia proprio oggi è uscito un risultato che è drammatico riguardo ai compiti degli esami di maturità dei nostri ragazzi. Del 50% più del 50% dei ragazzi sarebbe stato bocciato se analizzato con una serie di criteri oggettivi che proprio l'Accademia della Crusca ha messo a punto l'anno scorso insieme al Ministero. Assolutamente, ecco. Quindi l'Accademia della Crusca non è un'istituzione morta per una lingua morta, ma è un'istituzione viva per una lingua viva, perché se andiamo avanti così probabilmente già non riusciamo a parlare fuori dai confini nazionali con i nostri coetanei all'estero, ma se andiamo avanti così non riusciremo più né a parlare né a scrivere in italiano. Sì. Ma voi avete, come dire, sensibilizzato il governo, la politica, mi viene da ridere, lei non ride, professoressa Marasco, per piacere, avete sensibilizzato il governo e la politica? È il compito che io mi sono presa 2 anni fa, quando sono diventata presidente, perché mi sono resa conto che non potevamo più andare avanti così, facendo elemosine continue e facendo progetti che potevano essere finanziati o non finanziati. Quindi questo stato di precarietà ci rendeva la vita impossibile, e quindi ho cominciato a prendere contatti con il nostro, con i nostri politici, con Roma, con quelli della regione toscana, del comune, eccetera. Certo. Però da sola non ce l'ho fatta. Certo, assolutamente. Sono passati 2 anni e io non ho ottenuto niente. Allora, guardi. È per quello che abbiamo fatto un appello, tutti gli accademici insieme. Certo. Sono 50 persone studiosi, sono persone autorevolissime, e allora abbiamo fatto questo. Assolutamente. Allora, professoressa Maraschio, io le ricordo che politici in Italia si scrive con la P minuscola e a buon intenditor poche parole. Quindi lei è in grado perfettamente di intendere, professoressa Maraschio, così come i nostri radioascoltatori. E allora io vi invito a visitare il sito dell'Accademia della Crusca, che è facilissimo, accademiadellacrusca.it. Visitatelo, navigateci, scoprite quanto di bene fa per la nostra lingua. Io personalmente lo dico ufficialmente, quest'anno, se è possibile dare il 5 per 1000 all'Accademia della Crusca, lo farò ben volentieri. Allora, grazie a lei, professoressa Maraschio. Grazie a lei. Grazie per il suo intervento. In regia dico grazie a Valerio Rocchetti, in studio ad Antonella Migliaccio e a Valeria Coffaro. E Roberto Galullo vi augura una buona giornata.